известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Franny and I are so thrilled that we can finally celebrate this victory. And I am so excited to finally be able to get to work for the people of Minnesota. Posso finalmente dichiarare vittoria e sono finalmente pronto a cominciare a fare il mio lavoro per il popolo dello stato del Minnesota. Cari ascoltatori, non siamo nel novembre del 2008, questa non è una trasmissione registrata, siamo in diretta, sono le 16.08 e 19 secondi per provarvelo, ma quello che avete ascoltato è un annuncio pronunciato solo poche ore or sono da Al Franken. Al Franken, ex comedian, ex comico, come sentite anche da questo tono così. Facciamolo sentire il tono, eh? Insomma, un affabulatore, uno che sa come intrattenere il pubblico, l'uomo che si inventò qualche anno or sono Air America, la radio progressista che cercava di arginare in quel momento lo strapotere mediatico di George W. Bush. Poi si è buttato, non capita mica solo in Italia, capita anche nella America del 2008, si è buttato in politica e ha corso per un seggio senatoriale del Minnesota. Oggi avrà pensato il suo concorrente che maglie l'incolga, insomma, perché dopo una corsa elettorale assai dura, ravvicinata con il repubblicano Norm Coleman, il democratico Al Franken sembrava aver perso soltanto, pensate un po', su 2,5 milioni di voti espressi dalle urne di quello stato, per 206 voti. Lui non c'è voluto stare, ha cominciato ad attivare, devo dire con una ostinazione, una tenacia degna di una causa così importante, ha cominciato ad attivare una serie di appelli, di ricorsi, di pretese, di riconteggi che sono avvenuti, poi vengono rifatti. La cosa divertente, che poi un giorno dovrò capire perché, è che ogni volta che li contavano veniva un numero diverso, e questo è uno dei grandi misteri della politica moderna. Insomma, alla fine, dopo che sono stati spesi peraltro svariati milioni di dollari per dare un senso alla questione, dopo che la Corte Suprema addirittura è dovuta intervenire e mettere parola fine alla questione, alla fine ha vinto Al Franken, un comitato di tre giudici ha annunciato che Al Franken ha vinto per 312 voti, quindi siamo sempre lì, e credo abbia anche sancito che Norm Coleman, per favore, si astenga dal ricorrere ancora, anche perché tra un po' la legislatura è finita, e quindi 8 mesi dopo quella vittoria Al Franken è diventato senatore. La cosa ha una sua importanza, la storia ha anche una sua intensità, con questi alti e bassi, questi ricorsi. Questa sicuramente ci scriverà un libro, anche perché è uno di penna facile, il nostro Al Franken. Ma però la storia ha un significato politico che va ben oltre la vittoria di questo stravagante personaggio, perché questo è il seggio numero 60 al Senato americano per i democratici. Seggio numero 60 significa no filibuster, ovvero capacità, possibilità da parte di questa maggioranza del 60% di rimuovere qualsiasi ostruzionismo venga posto alle decisioni del presidente. Quindi il Senato verrebbe superato in modo matematico e irresistibile da questa maggioranza, almeno fino a quando non si tornerà a votare. Ormai non ci manca neanche molto. Sono circa 16 mesi, quando le elezioni di mezzo termine del novembre 2010 cambieranno parte del Senato, della Camera e quant'altro. La questione è interessante, ma non è, ripeto, poi così scritta, perché è vero che a questo punto sembrano proprio essere 60 su 100 quelli che possono votare sotto le insegne democratiche, e quindi favorire, sostenere e permettere a Barack Obama una condotta politica e decisionista ben più disinvolta di quando invece può esistere la capacità di ostruzionismo, di filibuster da parte del Senato. Però è anche vero che questi 60 voti contati, raccolti attualmente dai democratici, includono quelli di due indipendenti, su cui quindi molto ci sarà sempre da discutere, anzi che con il tipico spirito indipendente americano spesso e volentieri potrebbero far mancare il loro voto, e poi ci sono due malati, ci dispiace definirli così, ma cronici, ovvero il senatore Robert Byrd del West Virginia e soprattutto la superstar della politica americana Ted Kennedy, che sono praticamente sempre assenti in Senato e non sostituiti naturalmente perché detengono il titolo di senatore, però non vanno praticamente mai a votare, oppure quando ci devono andare la questione è assai complicata, devono essere letteralmente portati a votare con una procedura anche non troppo leggiadra anche da un punto di vista umano, e di conseguenza ecco che si rimescolano le carte. Però di fatto lo stesso presidente Obama ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo di Al Franken e anche per la fine di questa storia infinita, no? Che aveva superato tutto l'inverno e la primavera, e poi veramente questo duello Franken-Coleman era diventato una specie di cantilena dei notiziari politici americani. Ha dichiarato Obama che non vede l'ora di lavorare con Franken per costruire le nuove fondamenta per la crescita e la prosperità dell'America, per abbassare i costi della sanità, investire nell'energia pulita, insomma ne ha approfittato poi per snocciolare il suo rosario di propositi. Quello che è certo è che sembra che già lunedì, superato il weekend, no, fatta magari una gita a pescare, Al Franken finalmente sarà a Washington in Senato. E poi aggiornamento numero due che vi vogliamo fornire, tra l'altro corredato di ultimissime notizie appena arrivate che attualizzano ancora più la storia. Ieri ve l'abbiamo raccontata in apertura, questa questione dell'Honduras, colpo di Stato o non colpo di Stato, voi stessi con i vostri SMS avete discusso sulla legittimità di questa definizione, ma è una definizione che ricorre anche alle sfere più alte della politica internazionale. Di fatto Manuel Zelaya, il presidente che è stato destituito e accompagnato in pigiama fuori del paese perché è ritenuta pericolosa la sua intenzione di attivare un referendum che favorisse un eventuale suo secondo mandato, è vicino allo scadere il suo primo mandato presidenziale, 4 anni, adombrando una volontà di propositi dittatoriali, diciamo così, che risuonerebbero vicini a quelli del suo grande amico Hugo Chavez, per non parlare dello stesso Fidel Castro. Insomma, Zelaya è andato alle Nazioni Unite, ha raccolto la solidarietà dell'Assemblea Generale a New York, delle Nazioni Unite, c'è stata una unanime quasi condanna del comportamento dei responsabili di questa destituzione, e poi ha annunciato che rientrerà in Honduras a Tegucigalpa, la capitale dello Stato. Ora esistono due versioni dei fatti: un primo suo annuncio sistemava addirittura per giovedì, ovvero per domani, il rientro di Zelaya nel suo paese. Adesso è appena arrivato, pochi minuti fa, una agenzia che aggiorna il proposito, ha preso un attimo di tempo, ha detto aspetta, arriviamo fino a sabato, e anche perché, come dire, dall'interno gli hanno mandato a dire che sia avvisato che non appena mette piede su terra honduregna viene arrestato. Glielo ha fatto sapere il presidente ad interim Roberto Micheletti, no? Quello di origini bergamasche, tifoso dell'Atalanta, c'è anche questo versante così di colore a margine di questa storia, che ha fatto sapere che se Zelaya rientrerà nel paese dovrà fare i conti immediatamente con i tribunali e con le leggi dell'Honduras, e che verrà be sent to jail, verrà mandato in galera, testuali parole, e ha completato la frase dicendo: vi posso posso assicurare che il suo futuro è dietro le sbarre. Insomma, è una situazione frontale che si va quindi indurendo in modo anche piuttosto preoccupante. Non ci sono compromessi, ha detto ancora Micheletti, perché se prova a rientrare verrà arrestato. Ma Zelaya sostiene che vuole tornare solo per calmare la situazione, per essere pronto a darsi, offrirsi al confronto, per dire il vostro comandante è qui pronto per servire il popolo, è quello che devo fare, dice ancora Zelaya. Si analizzano le possibilità, ci potrebbero essere grandi manifestazioni popolari nelle prossime ore per un fronte o per l'altro e potrebbero avere un peso determinante. Peso ancora più determinante potrebbe avere naturalmente il parere, l'opinione e l'eventuale azione degli Stati Uniti d'America e di Hillary Clinton in prima persona, che tra l'altro non ha mai simpatizzato particolarmente con Zelaya, e gli Stati Uniti potrebbero anche prendere in considerazione almeno un deciso intervento diplomatico. Se non altro, staremo a vedere. Zelaya nel frattempo fa sapere che comunque ci ha rinunciato, basta, non vuole più sapere niente più, nuovo mandato presidenziale, vuole solo tornare in pace, anche riappropriarsi probabilmente delle sue proprietà e delle sue cose. Lui tra l'altro è un ranciero molto, molto ricco, è un signore del legname in Honduras, e ha fatto sapere che non appena rientrato e sistemate le cose se ne va nella sua fattoria, ma per favore fatelo rientrare. Who will be at Sanssouci tonight? The boys that made me lose the blues and then my eyesight all together. Che meraviglia, una giornata di primo luglio, no? E con grandissimo Rufus Wainwright che canta così, no? Le emozioni, i moti dello spirito, come solo lui. Lo ascoltiamo ancora un secondo. Ti piace? Non mi stavo cantando mentalmente, non mi permetto di cantare a microfono aperto. Grande Rufus Wainwright, artista americano, tra l'altro figlio d'arte, se non lo avete ancora conosciuto scopritelo. Tempo tra l'altro di elaborazione e lutto in America, nello show business americano. Si sono svolti i funerali di Farrah Fawcett, è stato tra l'altro anche permesso al figlio, che era dentro le patrie galere, di partecipare al funerale. Si stanno preparando quelli di MJ, Jaco, Michael Jackson, verrà sepolto a Neverland, secondo me sarà una cerimonia di quelle memorabili a tutti gli effetti. In mondo visione. Mentre proliferano le teorie su come diavolo sia morto e quale schifezza si sia messa nello stomaco, adesso c'è un nuovo sedativo che si chiama Diprivan, che potrebbe essere la causa della sua morte. Ma perché glieli davano questi sedativi? Tra l'altro aveva un medico personale, l'infermiera personale, e adesso stiamo facendo il conto delle porcherie che aveva nella pancia, che l'autopsia ha scoperto. Di fatto, insomma, è chiaro che un grande disagio riempiva la vita dell'artista, quanto al tempo stesso sono emerse, e di questo siamo soddisfatti, perché poi c'è un versante, come dire, eterno e memorabile di questi grandi artisti. Sono emerse queste foto di Michael Jackson nelle prove generali alla O2 Arena di Londra, e il, come dire, questo che tutti descrivono come un cadavere ambulante, era splendido, radioso, come dire, molleggiato e ispiratissimo, direi perfino molto bello, in queste foto che preparavano questo rientro che non ci sarà più, ma i cui biglietti l'AIG stava per saltare, no? Il management che ha organizzato i 50 concerti, 85 milioni di biglietti prevenduti, erano terrorizzati a rimborsare, poi si stanno accorgendo in realtà che i fans non rivogliono i soldi, come tu avevi pronosticato, perché si vogliono tenere il bigliettino, e io me lo sarei tenuto il bigliettino, boh, mi sa di sì. Un bel ricordo. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Vai, andiamo con i punti sensibili. Allora, io vi offro una rapidissima centrifuga di numeri economici dalla Cina. Naturalmente i numeri poi andrebbero interpretati, letti a fondo, però insomma possono comunque indicare uno stato delle cose. Naturalmente l'economia mondiale continua ad annaspare con i problemi della crisi. La Cina forse non sarà un'osi, anzi non è un'osi felice, però sul piano economico mostra sempre dei segnali incoraggianti e di grande dinamismo. Per esempio, ce l'hanno ripetuto in questi anni un po' tutti i nostri amici commentatori della Cina, che la grande sfida del presente e del futuro di Pechino è quello di rinforzare, di rinsaldare la domanda interna, quindi rafforzare l'economia interna, non essere più un gigante però dipendente dalle esportazioni. Ebbene, nel solo mese di maggio la domanda interna è cresciuta del 15,2% e nei primi 5 mesi del 2009 sono stati spesi in patria 2,2 miliardi di dollari. Naturalmente sono cifre stratosferiche, certo, insomma clamorose, d'altronde parliamo di un paese con oltre un miliardo di persone. E a segnare un andamento positivo della situazione interna della Cina c'è anche un dato sulle assicurazioni, non so che peso possa avere, però insomma pare che nei 5 mesi di quest'anno le compagnie di assicurazione cinesi abbiano raccolto premi per 72 miliardi di dollari, non so quante finanziarie italiane ci stanno da paese di medio questi caldo. Dati poi certo. Per esempio va a gonfie vele il settore delle auto, se pensiamo all'America, insomma il clima è certo. Tutt'altro. Nel 2008 sono state prodotte in Cina, naturalmente questo non significa che sono state vendute in Cina, ma comunque prodotte in Cina spesso da giganti poi americani o comunque internazionali, quasi 10 milioni di auto, 9,34 milioni, e proprio oggi non a caso la General Motors, come è messa in America la General Motors? Ancora lì sull'orlo del baratro forse, conosciuto tempi migliori. Ebbene, oggi ha annunciato con una certa soddisfazione, e si può anche capire visto il momento cupo, che ha registrato un record di vendite in Cina. Non so quanto questo possa poi alimentare le finanze interne, però insomma in Cina nel primo semestre dell'anno c'è stato un incremento del 38% di vendite, con un totale quasi di 900.000 macchine venduta in Cina, quindi forse la Cina può essere la salvezza della General Motors. Lo status, cosa ci sarà all'origine? E di tante altre grandi... Soprattutto la General Motors, penso, soprattutto lo status, perché le macchine, insomma, così. Vabbè, questo è un po' il quadro della situazione economica in Cina. Invece da Teheran arriva una notizia che non fa parte del solito filone che ci siamo abituati a commentare in questi giorni, ma in un certo senso fa riferimento alle vecchie notizie che eravamo abituati a commentare prima, e quasi quasi abbiamo nostalgia per quelle relative alle turbolenze politiche, perché la notizia dice che 6 persone sono state impiccate oggi a Teheran dopo essere state riconosciute colpevoli di omicidio. La notizia arriva dall'agenzia ISNA. Esmatullah Jaberi, un magistrato della sezione per le esecuzioni, dice che alcuni dei giustiziati erano stati condannati per avere ucciso il consorte, quindi omicidio. Una triste normalità che torna a conchiudersi con una esecuzione capitale. Altri 3 condannati alla pena capitale, avrebbe aggiunto il magistrato, sono stati risparmiati perché le famiglie delle loro vittime hanno concesso il perdono. Bene. Hai qualcosa ancora? Beh, possiamo dire che per esempio in Cina la notizia del giorno riguarda il famoso Green Dam, cioè questa diga verde, certo, questo filtro, certo, soprattutto antipornografico, che dal 1 luglio sarebbe stato obbligatorio per tutti i produttori di computer installare nei PC venduti in Cina. Naturalmente era un filtro anche che avrebbe imposto le dure mani della censura su tutti gli internauti, quasi 300 milioni di cinesi. Ebbene, pare che la protesta dei blogger su internet abbia fermato per ora il governo, e quindi c'è stata un rinvio, uno slittamento dell'entrata in vigore di questo Grim Dam, a data da ancora stabilirsi, quindi chissà poi se sarà un rinvio sine die. A proposito, ieri non abbiamo, poi con nel collegamento con Margelletti e Negri, non siamo arrivati a parlare dei blocchi e delle censure in Iran, che stanno facendo i loro effetti, ma è interessante, andrebbe approfondita. Probabilmente l'avrete già letta qualche parte, la notizia riguarda la Nokia, il colosso finlandese della telefonia, che ha fatto delle parziali ammissioni relative alla tracciabilità delle telefonate effettuate appunto con i sistemi telefonici che la Nokia stessa ha fornito all'Iran. È una notizia che sembra poi una mezza verità, non andrebbe approfondito, pare che non riguardi l'universo telematico, non riguardi internet, riguarda solo la telefonia, ma ci sono delle agenzie a riguardo e forse meriteranno nei prossimi giorni un approfondimento. Tra l'altro si continua a non poter comunicare via SMS in Iran. Stiamo perfezionando il collegamento con Mario Platero da New York, corrispondente del Sole 24 Ore, perché ci sono un po' di cose che vogliamo discutere con Mario attorno all'atmosfera che circonda il presidente americano Barack Obama alla vigilia del suo tour, un tour di una importanza che definirei, se non straordinaria, assai grande, perché toccherà il G8 dell'Aquila, dove naturalmente la sua presenza fa davvero e propria cartina tornasole, ma poi toccherà anche la Russia, dove la definizione del tipo, del genere di rapporti che Obama intraprenderà con la Russia del 2009 è assai interessante capire e ispezionare. Tra l'altro Mario Platero sarà al seguito di questa spedizione, quindi ci auguriamo anche faccia, come dire, da occhi e orecchi per noi di Jefferson. Buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, la questione su cui vorrei coinvolgerti e interrogarti riguarda appunto l'atmosfera attorno a Obama. Obama sta in questo momento ponendo sul tavolo, soprattutto degli affari interni americani, due questioni che sappiamo rappresentano praticamente le priorità assolute, se ci si aggiunge magari l'occupazione naturalmente e il tavolo dell'educazione, ma diciamo che sanità e energia pulita sono i capisaldi del suo programma e anche le due promesse con la P maiuscola che ha pronunciato in campagna elettorale. Ci sta lavorando, sta facendo compromessi, sta facendo alcuni passi in avanti, ma deve fare periodicamente alcuni passi indietro. La questione della sanità, si sta cominciando a capire che nel dibattito interno, anche quello da bar della strada americano, è soprattutto una questione di soldi. La gente ha paura che si stia stia facendo il passo più lungo della gamba in favore di questi famosi 47 milioni che minacciano di essere gli ultimi americani, e quindi, come dire, produrre questo sforzo costa un tantino in più. La questione dell'energia è a sua volta sottoposta a dei compromessi, nel senso che i propositi erano straordinari e grandissimi, i risultati, le risultanze che stanno per diventare legge magari sono qualcosa di un po' più, appunto, soggetto a compromessi. Tutto ciò sta generando delle vere e proprie fiammate di attacchi nei confronti di Barack Obama. Si torna un po' all'origine, si dice che tra il dire e il fare, nel caso di questo presidente, ci sia ancora di mezzo il mare, e sembra come se siamo nel pieno di una, come dire, di un'estate, no, di eterno scontento nei confronti del presidente, che tra poco vedremo da questa parte dell'Atlantico. Mario, sta cambiando l'aria attorno a Barack Obama? Ma dunque, un po' sta cambiando, però devo dire che su alcuni elementi centrali è anche cambiata l'aria nell'opinione pubblica americana. È vero che ci sono attacchi feroci, è vero che si stanno organizzando manifestazioni, risposte articolate alle proposte di Obama, ma è anche vero che vengono dall'opposizione, vengono dal Partito Repubblicano, vengono da certe basi militanti del Partito Repubblicano, e vengono sia nel caso della sanità che delle riforme ambientali da organizzazioni aziendali di vario genere. In America non c'è l'equivalente della Confindustria, ricordiamolo, però ci sono numerose organizzazioni simili che si mobilitano e in genere agiscono di concerto. Una delle più importanti, per esempio, è la Camera di Commercio americana. Bene, la Camera di Commercio americana ha organizzato un vero e proprio sito, una vera e propria squadra, la cui missione è esclusivamente quella di giocare contro le proposte di riforma sanitaria di Barack Obama. Dunque sì, ci sono queste resistenze. Ecco, sull'altro fronte interessante però prendere atto del fatto che l'opinione pubblica americana oggi, dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi dell'anno scorso, si fida un po' più dello Stato di quanto non si fidasse un anno fa. Stati dei sondaggi in cui mentre solo il 47% dell'opinione pubblica l'anno scorso diceva ma sì, in fondo io mi fido dello Stato che possa gestire una situazione sanitaria che funzioni, ecco, adesso siamo passati addirittura al 52% in un caso e al 61% in un altro caso. Quindi l'opinione pubblica nel suo insieme è aperta e interessata. Certo, il grosso barrage ancora non è cominciato. Certo. Comincerà fra poco, perché è tra la, direi, seconda settimana, e sarà nelle ultime due settimane di luglio che il dibattito si farà feroce, che i repubblicani getteranno tutto il peso del loro contrattacco sulle proposte di Barack Obama, e poi ci sarà l'interruzione estiva e poi si ricomincerà a settembre. L'obiettivo di Obama è di chiudere tutto entro dicembre, e questo per una ragione molto semplice, perché se arriverà con una situazione economica, soprattutto sul fronte occupazione, negativa. Le stime sono che per il 2010 si arrivi davvero ai famosi due digits, cioè al doppio, certo, numero, quindi passare dal torno 9% che siamo adesso, arrivare al 10, all'11%. Questo significa, da qui allora, è vero che è diminuito il numero di disoccupati su base mensile dai 500-600 mila che abbiamo visto a novembre, dicembre, gennaio, siamo scesi a 300 mila, quindi grande progresso, ma se continuiamo di questo passo vuol dire, certo, che sono 3 milioni di persone da quei prossimi 10 mesi. Ecco, se per allora l'economia non sarà migliorata sostanzialmente, e il timore è che l'occupazione non sarà migliorata, ecco, sul piano politico Barack Obama sarà più debole. Ci saranno le elezioni di fine mandato del 2010, certo, di metà mandato del, certo, 2010, nel novembre, e dunque nel momento in cui interverrà il grosso del politics nella seconda metà del 2010 per le elezioni, ecco che Obama deve aver già portato a casa questi due importanti risultati, altrimenti si incaglierà, rischierà di avere un'opinione pubblica che davvero gli si rivolta contro, cosa che oggi ancora non è successa, certo, e a quel punto rischierà di di chiudere di nuovo in un nulla, in un nulla di fatto questa sua cosa. Senti Mario, ma non hai la sensazione che siano anche diversi editorialisti, alcuni quali piuttosto autorevoli? Io ho letto articoli di Rich Lowry sul Post, per esempio, di Crook sul Financial Times, articoli quasi spietati, insomma, Obama ha perso la sua magia, oppure riecco l'uomo delle tante promesse. Stiano cavalcando veramente lo scontento, forse quello scontento che dici tu, davvero. Sì. Sono dei columnist, David Brooks per esempio, che è bravissimo, estremamente intelligente, scrive sempre delle column molto molto belle per il New York Times, ma David Brooks è il token di destra, certo, del New York Times, certo. Cioè lui rappresenta la corrente repubblicana e dunque riflette la posizione dei repubblicani. Se sempre sul New York Times leggiamo Paul Krugman, Paul Krugman sta attaccando Obama dall'altra parte, come certo, dice, certo. E sta dicendo che troppi compromessi, non sta certo. facendo tutto quello certo. troppi compromessi, questo è il momento in cui assolutamente bisogna andare fino in fondo, in cui l'America è pronta, in cui lo Stato può davvero fare quello che deve fare da un punto di vista di missione, quindi che sia fatto subito, perché sennò poi si perde l'occasione, quindi sta attaccando Obama da sinistra, ecco, e quindi il povero Obama in un qualche modo si trova preso in mezzo. Uomo però, ricordiamolo, sempre prudente, certo. sempre molto freddo, sempre così distaccato dall'impatto emotivo che può ovviamente generarsi da attacchi violenti di questo genere, e quindi lui sta navigando questa linea sottile del compromesso, cercando di portare a casa il risultato con la sua maggioranza democratica. Una maggioranza democratica che, tra l'altro, ricordiamolo, a questo punto si è rafforzata in Senato, perché certo. Franken, è arrivato. Il famoso voto del Minnesota, Franken, per il Senato, che così ex comico, che poi adesso è diventato senatore, ha vinto certo, lui, è un certo. democratico, e quindi da oggi democratici possono contare sulla soglia magica dei 60 seggi in Senato. Certo. No, filibuster. Certo. Molto importante, perché impedisce ai repubblicani di fare l'ostruzionismo, e quindi è un'importante mano politica che oggi è arrivata nel basket, nel cestello di Barack Obama. Senti, per concludere rapidamente, Silvio Berlusconi sulle questioni internazionali, Iran in primo luogo, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto bellicose riguardo agli avvisi che potrebbero partire dall'assise del G8 dell'Aquila, ormai imminente. Mi sembra che da parte della Casa Bianca è stata gettata un po' di acqua sul fuoco, no? Il portavoce di Barack Obama ha detto, ma insomma, meglio anche in queste grandi dichiarazioni di intenti, magari di eventuali boicottaggi o di provvedimenti di vario genere, andarci molto con i piedi di piombo. È così, vedremo un Obama prudente all'Aquila su questi fronti? Prudente. Obama è sempre prudente. Sempre così, mai fare il passo più lungo della gamba su qualunque cosa. Ecco, direi che sull'Iran ha avuto dei problemi perché ha reagito in ritardo, non ha capito, cosa che poi lui stesso ha detto di non aver capito, ma non aveva capito che il coagulo di questo straordinario movimento popolare attorno alla figura di Mousavi non era semplicemente l'espressione di un altro conservatorismo. È vero che Mousavi viene da radici comeiniste, perché fu addirittura l'assistente del primo grande supremo Ayatollah, no, Khomeini, certo. Però poi andò in una corrente opposta. Mousavi fu il padre del progetto nucleare, quindi alla Casa Bianca, molto realisti, molto analitici, dicono, ma insomma, noi qui abbiamo avviato un dialogo con gli altri, adesso andiamo a creare una gran confusione spostando il tiro, e poi ci ritroviamo comunque con lo stesso perno o comunque con quell'altro che non è un'alternativa credibile, perché poi fino a che punto cambia, è una Ayatollah anche lui. Certo. Ecco, quello che la Casa Bianca non ha capito è che in realtà c'era un movimento popolare che ha usato l'uomo simbolo Mousavi per dare questa straordinaria espressione di ricerca di libertà, di cambiamento, e quindi lui quell'onda non l'ha capita e non l'ha cavalcata. Se ne è accorto, ha corretto leggermente il tiro, ma secondo me dal punto di vista d'immagine, dal punto di vista politico l'ha fatto troppo tardi, qualche volta la prudenza eccessiva non paga. Ricordo un'ultima cosa, che comunque Obama ha stabilito una scadenza, entro dicembre, certo. Con questo Iran o con l'Iran che comunque avrà dato a quel punto un governo, bisognerà aver trovato un accordo di qualche genere. Io credo che alla fine, se troverà una sponda sugli altri governi europei, forse, devo dire personalmente me lo auguro perché è un segnale forte e importante, forse nel comunicato ci sarà qualche cosa di più duro che un semplice così buffetto sulla spalla. Allora, grazie a Mario Platero, lo risentiremo in occasione del G8 la prossima settimana, il G8 a cui Barack Obama insieme agli altri capi di Stato parteciperà all'Aquila. Molti messaggi, ci arrivano altri 3899-238-6666, tra l'altro c'è Simo, nostro affezionatissimo ascoltatore, ci chiede se la Sotomayor è già al lavoro nella Corte Suprema. No, comincia il suo lavoro ad ottobre, mi sembra la prima riunione il primo lunedì di ottobre, se non sbaglio, diventa operativa. E poi ci informa che i latinos chiamano il presidente interim dell'Honduras Micheletti, quindi ne prendiamo atto e da oggi in poi lo chiameremo Micheletti. Maurizio da Londra mette in orbita, Maurizio, ma come viene in mente una cosa del genere? Mette in orbita il consueto dubbio se Michael Jackson fosse ancora vivo, insomma la solita montatura insieme a Elvis, avvistato al supermercato, comprava hamburger, Jacopo comprava che cosa, guantini bianchi, non so, sonniferi, boh. Mi sa di no Maurizio. Invece abbiamo in linea, in diretta, il nostro amico Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano, frequente visitatore degli scenari d'Oriente, è stato a Singapore, ora ci racconterà qualcosa al riguardo, ma soprattutto ha dato un'occhiata alla sempre più imminente Expo di Shanghai e ci potrà ragguagliare al riguardo. Buon pomeriggio Giuliano. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori da una calda Shanghai. Senti un po', Duca, ma di Singapore, a parte qualche listino di borsa, qualche notizia, non si sente parlare mai. Ma perché? Perché le cose lì vanno tutte talmente bene, tutto funziona ed è in orario in modo così splendido che non c'è bisogno di parlarne. Che scenari ti sei visto d'attorno durante la tua visita? Ma guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Altro che Svizzera, la Svizzera è a Singapore, cari radioascoltatori. È un paese, di fatto una città incredibile, di soli 710 chilometri quadrati, dove tutto funziona alla perfezione. Due dati su tutti. Il primo, sono stato a vedere il master plan, quindi il piano di sviluppo urbanistico del paese, è tutto definito da qui ai prossimi 30 anni, lotto per lotto, ed è tutto perfettamente organizzato, altro che la pianificazione della nostra città. Quindi... Una seconda cosa che mi ha impressionato, Stefano, è il fatto che con un'unica tessera, con un chip magnetico, è possibile utilizzare mezzi di trasporto, metterla in macchina, pagare i parcheggi con radiofrequenze, e i parcheggi hanno tariffa variabile a seconda delle condizioni di traffico per incentivare un atteggiamento più ecosostenibile. Decisamente ho avuto la sensazione di essere in un altro mondo. Il paradiso di Singapore, immagino l'entusiasmo e anche lo sconcerto, no? Facendo i debiti raffronti di tanti ascoltatori che magari in questo momento sono in macchina nelle nostre così turbolente città. So che hai raccontato anche qualcosa di interessante riguardo ai check-in di Shanghai. Di che si tratta? Sì, è una cosa che quando ho verificato mi sono sentito male, devo dire. Praticamente sto varato un piano approvato in inizio settimana per cui sarà possibile per i passeggeri cinesi in città che distano 3 ore via ferrovia da Shanghai fare il check-in in queste stazioni ferroviarie, e i bagagli li verranno automaticamente inviati nell'aeroporto di Shanghai. Se pensiamo che a Milano non riusciamo ancora a fare il check-in a Milano Cadorna, diciamo che francamente siamo molto distanti. Se vuoi io ti parlo del nastro di Fiumicino, il mitico temuto nastro di Fiumicino. Senti un po', abbiamo un paio di minuti ancora. Expo di Shanghai, hai dato un'occhiata in giro, che cosa hai notato? Come ci puoi ragguagliare? Ma allora, innanzitutto sviluppo frenetico, ho notato che in questi ultimi 2 mesi i padiglioni espositivi sono cresciuti moltissimo, il padiglione della Cina terminato, il centro stampa terminato, il nostro padiglione italiano, sono andato a vederlo, è assolutamente nei tempi e sta crescendo bene, lo stanno costruendo bene, quindi assolutamente, voglio dire, frenetico lo sviluppo. Tra l'altro mi sono ritrovato un pezzo di Fiera di Milano, perché come sapranno i radioascoltatori, la copertura del corridoio centrale del sito dell'Expo è stata copiata da quello della Fiera di Milano ed è tutto montato. Una cosa che mi ha colpito fuori dal sito, si vede proprio camminando e andando in taxi per strada quanto imponente sia il piano svarato per le infrastrutture dal governo e dalla città di Shanghai in occasione dell'Expo. Qui è tutto in costruzione. Bene, mancano tra l'altro circa 10 mesi, quindi i tempi... Mancano 304 giorni, io ieri ero all'Expo, mancano 304 giorni, il countdown per loro è iniziato, e quindi come si suol dire la tensione sale e i cinesi ne sono ben consapevoli. Grazie a Giuliano Noci per queste ultimissime, informazioni. Voi di countdown ne sapete qualcosa, ce ne sono di temuti che sono andati in onda qui a Jefferson 2, l'arte della svolta, dove ci sono io, Stefano Pistolini, Emiliano Enrico in redazione, in regia Alessandro Chiappini a Roma, Filippo Reggi a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook si chiamano Redazione Jefferson 2 e Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, replica a mezzanotte diretta dopo le 4 domani qui su Radio 24, dove vi aspettiamo, ci risentiamo.